בלו טיים. בלו טיים לייב. בלו טיים. לייב. Buonasera a tutti, benvenuti all'interno della programmazione serale di Blu Radio Veneto. Questa è Blu Time Live, io sono Flavio Bilato, insieme a me c'è Maurizio Calzavara. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera ai nostri ascoltatori. E anche questa sera, come non deludere i nostri ascoltatori facendo ascoltare loro dell'ottima musica acustica alternata a commenti per quanto riguarda la musica di stasera. Allora Maurizio, assieme a te chi troviamo? Abbiamo un cantautore. I cantautori fanno sempre piacere, secondo me, quando vengono qua da noi. Assolutamente sempre piacere, ci fa ancora piacere ospitare chi arriva da Reggio Emilia, e quindi diamo il benvenuto a Fabio Debbi. Ciao, ciao. Allora, tutto bene? Assolutamente sì. Mi dicevi che avevi fatto il viaggio in compagnia di ottima musica. Sempre. Stereo, manetta e, e via. Mi piace perché utilizzi la parola a manetta. A manetta. Perché è molto emiliana, perché dove c'è della doppia lettera aiuta a enfatizzare le mie parti. Allora, Fabio Debbi, direttamente da Reggio Emilia a Padova, presso la redazione musicale di Blu Radio Veneto, per presentarci il suo terzo lavoro in ordine di tempo, che si intitola Il posto più sicuro. Allora, il posto più sicuro, io l'ho letto in due maniere, Fabio, perdonami. Vai, no? Assolutamente. Entriamo già nell'argomento. L'ho letto in due maniere, nel senso, il posto più sicuro con il punto esclamativo o il posto più sicuro col punto di domanda. Perché c'è un raggio formato da punti di domanda e punti esclamativi che parli insieme formano... Sì, stiamo parlando della copertina in questo caso, che formano una specie di fiore. Il fiore interrogativo lo chiamerei. Bella questa cosa qui. O esclamativo. O esclamativo, certo. No, in realtà il posto più sicuro come album è nato da una frase di John Bernard Shaw, il drammaturgo, che lui diceva questa frase, l'ho letta da qualche parte e mi ha colpito. Diceva: se tu dai una mela a me e io do una mela a te, entrambi abbiamo una mela. Se io do un'idea a te e tu dai un'idea a me, entrambi abbiamo due idee. Questa cosa mi ha colpito, l'ho immaginato sopra delle intere notti, perché il cantautore quando scrive di notte. Sempre, sì, certo. Assolutamente. Sempre di notte. E non dorme mai, infatti alle volte certe seghe mentali vengono solo dai cantautori, credo, secondo me. Sei guciniano nella tua frase, assolutamente guciniano. Assolutamente sì. Assolutamente anche guciniano. Parte anche un po' nella R, capito? Sì, parte un po' della R, sì, effettivamente. E niente, quindi ho immaginato il posto più... ho immaginato praticamente il tema... Cioè, il tema fondamentale dell'album sono le idee, ok? E ho immaginato l'idea intesa come posto, un luogo in cui potessi rifugiare e poter poi ripartire, dal quale poter ripartire, insomma. E quindi la canzone che dà il titolo all'album, Il posto più sicuro, cita nel ritornello: il posto più sicuro sono le nostre idee. E quindi tutto dopo il lavoro è partito, pensando a varie sfumature sul concetto dell'idea, e è nato questo album. Benissimo, allora questo album che impareremo a conoscere nel corso di quest'ora e mezza in cui staremo insieme è alternato tra musica acustica, quindi governata dalla chitarra che Fabio ha portato con sé, la sua bella bambina, ecco, in questo caso, eccola qua, proprio a conferma che è live anche nel prossimo periodo musicale, però direi di goderci un'alternanza iniziando da un brano da CD, che è proprio quello che tu hai appena inserito, e così impariamo a conoscere quella che è la musica di Fabio Debbi con Il posto più sicuro. Lui scrive storie in ogni dove, di notte in pausa pranzo quando può. Legge, osserva, ascolta in ogni dove, luoghi in cui gli spazi sconfinano. E il resto diventa un contrasto superato. soffro minuscolo. Del resto la mente non chiede permesso mai. Uno spazio c'è, zona inattaccabile. Sono le nostre idee, il posto più sicuro che possa esistere. Lei scatta foto in ogni dove, ogni viaggio, ogni volto, ogni volta che può. Ogni giorno per lei è un nuovo inizio, e ogni inizio è un nuovo volto da conoscere. In testa il suo mondo rimane ancorato, indelebile. La testa raccoglie battaglie perdute da vincere. Uno spazio c'è, Radio Veneto. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Incredibilmente rock, Fabio Debbi con questo Il posto più sicuro è anche il titolo dell'album che ci è venuto a presentare in questa serata, perché Fabio Debbi è proprio qui con noi. Buonasera ancora Fabio. Ciao, ciao, ciao. Allora, Il posto più sicuro racconta di un inesauribile scrittore e di un fotografo che hanno un qualcosa in comune, uno spazio inattaccabile e quindi l'unico posto sicuro dentro ciascuno di noi. Sono le nostre idee, certo. Sono le nostre idee, quindi... Beh, il pretesto di questi due personaggi che, se devo essere sincero, esistono, sono due miei amici. Uno è un cantautore, posso tranquillamente citarlo, che certo, è Giancarlo Frigeri. Lo conosciamo, è venuto più di una volta qua. Sì, assolutamente. Sì, sì. Esattamente. E sua moglie fa delle bellissime foto. Io penso, come li conosco, sono due persone stupende. E niente, ho preso come pretesto questa loro storia, questa loro unione. Effettivamente c'è un sacco di energia quando anche lui canta le proprie canzoni e lei fotografa. Questa cosa viene fuori, no? E allora, perché no, raccontare una storia di questo tipo, inserendola dentro al concetto base del CD, dell'idea. Parlavamo io e Fabio mentre il pezzo andava, Flavio, di questo. Secondo me, mentre il cantato in qualche flash, in qualche momento, è molto prog, certo momento il pezzo è leggermente prog, dopo no, è zeppeliano dall'inizio, il cantautorale e il resto. Però c'è un momento di prog e mi è venuto in mente, mi ha lasciato un tarlo in questo preciso istante, e abbiamo parlato con lui, e ho detto, può darsi, cosa dici, no, può darsi, sì, un flash, su un momento. Anche un momento. Perché ultimamente le esperienze prog sono sempre più vivaci, sembra essere ritornati proprio indietro di 40 anni fa, quando andava bene il prog italiano, e adesso c'è ancora una ventata, diciamo, di rifreschezza programmata. Ma io spero. Sei d'accordo allora? Spero che il dio del rock and roll ci dia una mano in questo senso. Ma io non lo so, io prendo e porto a casa questo complimento o questa tua osservazione. Questa è una mia idea, può darsi che non sia vera, però ma l'impatto, io il disco l'ho già sentito, ma l'impatto qui in questa sera 21:13 mi ha dato questa sensazione, in questo pezzo, chiaramente sì, in questo momento, certo. Poi il resto è diverso. Beh, è una bella cosa, cioè, diciamo che forse se c'è, onestamente è tutto casuale, cioè, perché quando uno fa una canzone decide una melodia, no? Non sempre la melodia che decide è giusta, anche perché non sempre nelle note più alte ci arrivi. Quindi alle volte è una serie di escamotage, di furbate, no? Per fare in modo di far quadrare il cerchio. Allora si vede che nelle note più alte forse ho questo vibrato. E poi c'è questo basso che proprio rompe nel senso positivo, dà una scossa totale, notevole al pezzo. Ah, può essere, no, io non so cosa dire, guarda. Assolutamente. No, però sì. Certo, il fatto che, insomma, dicevamo che è molto zeppeliano. Esattamente. Cioè, il riff tra chitarra all'unisono, tra chitarra e basso, richiama subito gli Zeppelin, assolutamente. Del resto ognuno di noi porta con sé ed espone il proprio bagaglio culturale, sia nel parlare che nel suonare. Un bel bagaglio, certo. Qui Led Zeppelin, eh? Ah sì, decisamente. Chapeau. A 12 anni tu hai cominciato con la chitarra, però subito ai 14 hai voluto provare con un altro strumento musicale, il sassofono. Sì, spaccando i maroni miei. proprio palese. La chitarra l'arpeggi, ma il sassofono quando sì. Inizi a suonare, cioè, all'inizio non è che sia questo, capito? E quindi hai dovuto lasciarlo da parte oppure ogni tanto... No, il sassofono lo ce l'ho ancora, perché non lo vendo, anche perché è uno strumento bellissimo, solo da vedere. E beh, lì ci sono delle tecniche particolari, suonarlo, cioè devi comunque avere il labbro, ti devi sostenere la nota e tutto il resto. È quel sassofono imponente, tanto per capire, con è tutti... il tenore, praticamente il tenore, è la via di mezzo tra l'alto, il contralto e il baritono, insomma. Certo. Però l'ho lasciato lì perché il sassofono, se lo suoni, ti comporta avere sempre, comporta una cosa, comporta avere un accompagnatore, insomma. Poi quando io iniziai non c'era questa cosa di YouTube dove tu vedevi, potevi avere tutte le basi scaricate, tutte le cose lì, andavi sul CD e andavi dietro la melodia e facevi, insomma. Certo, oppure ti prendevi un organetto Bontempi con la ritmica sotto, sì, di base. Oppure no, è vero, no, c'erano sì. Il tasto memo, sai, quella, sì, assolutamente. Perfetto, quindi non è stato comunque chitarra, sassofono, c'è stato anche il pianoforte che ti ha pianoforte, dato una mano importante. Il pianoforte, infatti nella biografia, scrivo ed è una parte in cui tengo parecchio, perché scrivo un polveroso pianoforte di un amico di infanzia, sì, no? Un amico di infanzia, sì. Che lui aveva questa casa sulle montagne di Reggio, e avevano sua madre, suonava, e questo pianoforte vecchissimo, dell'inizio del Novecento, no? Completamente nero, quindi tutto ebano, tutto dei tasti, alle volte mal funzionanti, insomma, anneriti dal tempo, così. E noi passavamo degli interi pomeriggi a schiacciare i tasti e provando, insomma, melodie, insomma, come fa un po' di tutti, insomma, all'inizio con... poi il pianoforte forse è lo strumento più bello in assoluto, perché la sua imponenza ti dà un sacco di, tra virgolette, di potere, ok? E niente, quindi e mi ricordo di questi interi pomeriggi a suonare questo bellissimo strumento, e alla sera mi ricordo, noi eravamo piccoli, lì siamo all'intorno tra le 9:30 e le 10, quando i bimbi cominciano un po' ad addormentarsi, e sua madre insieme a altri amici suonava questo piano tutta la sera, ed era un tipo un jukebox vivente, e suonava tutta musica italiana, tutta questa... È un bellissimo ricordo, quindi lo porto con il cuore questa cosa, perché tra l'altro questo mio amico è stato poi il primo a insegnarmi le prime cose con la chitarra, insomma, e quindi t'hai inserito nel filone, sì, musicale. La musica la musica è veramente, io ci tengo a questa cosa, è veramente una sorta di aggregazione, cioè di condivisione di emozioni, no? E spesso questa cosa si avverte solo all'inizio dell'approccio allo strumento, no? Poi quando uno diventa più bravino c'è chi se la tira, c'è chi non ti si volta le spalle e non ti dice l'accordo o il passaggio così, e questo è sbagliato, insomma. Infatti, cioè, da noi, ad esempio, anche ho citato prima Frigeri, insomma, sì, esatto. Tra di noi, ad esempio, tra noi due è nata una specie di collaborazione, ci passiamo i locali in cui suoniamo, alle volte io lo accompagno, o lui accompagna me, insomma, in certi live, quindi facciamo il nostro tragitto in macchina e parliamo e condividiamo l'amore per la musica. Questo è bello, insomma, è una bella Bene. Cosa. Ricordiamo ai nostri ascoltatori, gli amanti della musica, che noi, oltre ad avere le nostre frequenze tradizionali classiche FM, quindi da radio, da autoradio, siamo anche presenti su internet, all'interno del nostro sito bluradioveneto.it, nella pagina dedicata a Fabio Debbi, c'è la possibilità di cliccare e ascoltare in diretta questa trasmissione che poi sarà registrata e inserita all'interno dei nostri archivi sonori. In più, Fabio deve sapere che vengono scattate anche alcune foto. No, questo no. A testimonianza di quella che è stata il tuo arrivo qui in radio. E naturalmente salutiamo anche gli amici che vorranno intervenire via Facebook. All'interno della nostra pagina Blu Radio Veneto Rock Wave c'è la possibilità di mandare un salutino a Fabio. Anche offese? No, offese fanno bene. Quelle non vengono lette. Meno male. Allora, cosa facciamo adesso? Hai la chitarra? Hai la sì, chitarra? Suoniamo? Benissimo, allora vai. Suoniamo. Allora, il pezzo si chiama, sempre dell'ultimo album, Vorrei parlarti di cose. Vorrei parlarti di cose, e so ascolterai cose che neanche il tempo sa cambiare. Vorrei parlarti di sguardi, e so capirai di sguardi che valgono più delle parole. E farti arrivare fin dove neanche immagini, oltre una promessa da rispettare. E farti sapere che non scorderò mai di quel giorno che riprovammo a camminare, gettando via qualsiasi peso inutile, sentendo il cuore che vola già. Noi come due ombre indecifrabili viaggeremo solo con queste romantiche idee. Vorrei parlarti di cose che forse già saprai, cose che non hanno modo qui sottostare. Vorrei parlarti di gesti, di parole, poesie e canzoni e di testi da ricordare. E farsi conquistare da nuove energie, per piangere, gioire o per ballare. E sentirsi a casa vuol dire anche scappare via, e il ricordo è come un cane che sa abbaiare, gettando via qualsiasi peso inutile, sentendo il cuore che vola già. Noi come due ombre indecifrabili viaggeremo solo con queste romantiche idee, gettando via qualsiasi peso inutile, sentendo il cuore che vola già. Noi come due ombre indecifrabili viaggeremo solo con queste romantiche idee. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. E ci siamo ascoltati in versione acustica Vorrei parlarti di cose, tratto dall'ultimo lavoro Il posto più sicuro, si intitola così, di Fabio Debbi, direttamente da Reggio Emilia. Ancora ringraziamo Fabio di essere a qui voi. Con noi. Grazie a voi. Seduto insieme a noi per parlare di questo suo lavoro e per farcelo anche ascoltare in una versione assolutamente particolare, quella acustica. Mentre ricordiamo che questo pezzo, appunto Vorrei parlarti di cose, su disco si può ascoltare come un rock molto vivace. Sì, a volte è abbastanza anche andante, con sì. situazioni in controtempo, no? Perché cambia spesso il ritmo di questa canzone. E poi termina con degli arpeggi, direi, semplici, quasi elementari. Ah, e dopo la parte sì. finale c'è questa entrata, questo volo di questo mandolino che si ripete per 4-5 misure per poi ritornare al tempo iniziale, insomma. E parla di un incontro di due persone che già si conoscono ma devono imparare a ricominciare a parlarsi. Ma perlomeno l'ho letta così. No, no, è interessante questa cosa qua, perché vedi le canzoni hanno questo, secondo me, questo questa cosa, cioè nel senso uno casomai perde delle note a scrivere delle cose e poi dopo la chiave di lettura di un altro è tutt'altro, insomma, e quindi non dirò niente su questa canzone teniamo buona la tua versione, no sì. scherzo, no effettivamente no, può essere una chiave di lettura di questo tipo qua, più che altro forse la mia chiave di lettura o parte delle mie chiavi di lettura su questa canzone, vorrei parlare di cose, forse è legato a a quello che di solitamente lo si fa nel live, no? Cioè sono qui che racconto, che canto, suono la mia chitarra e prendo le distanze volutamente da quello che la maggior parte delle cose ti propone. Ok? Ah, ho capito. Quindi stai lì fermo un secondo che ti parlo di cose che casomai ti possono far cagare, ok? Non ti possono piacere, però è una visione alternativa a quello che può essere la maggior parte delle cose che... forse un concetto banale, chi lo sa, però c'è bisogno un attimo di resistenza, no? A livello di idee, in questo periodo qua, in questi giorni qua, in questi anni qua. Poi tu hai ribadito un concetto molto importante che fa parte dei live. La musica è come l'acqua, si infiltra dove vuole, perché i live si infiltrano. Tu suoni dappertutto, quando ti chiama vai a suonare. Sì, assolutamente. La musica si infiltra come sì, l'acqua, sì. ed è bello così. Sì, sì, assolutamente. E deve essere così, perché la musica si deve sentire suonare dappertutto. Se uno vuole suonare, non trova ostacoli, secondo me. No, allora... Anche se gli ostacoli sono di altra natura. E soprattutto la SIAE, ecco, vabbè. Assolutamente, questo proprio una roba allucinante. Questo è un ostacolo. Perché sì, sì, ci sono dei bellissimi posti che hanno chiuso e hanno non fanno più suonare, delle bellissime location, no? Posti che hanno questo palchettino che è bellissimo da vedere, da suonarci, da vedere anche, da ascoltare. Non suonano più perché problemi di SIAE, insomma, perché hanno, suonare, avere qualcuno che suona è un costo. E il discorso, cioè questa mia cosa che penso che la musica è come l'acqua che si infiltra dove vuole, dove è vera, cioè perché veramente tu con una chitarra o col tuo strumento o una tua storia da raccontare, 5 minuti di tempo li trovi. Ok? Adesso io fortunatamente suono parecchio, sono contento e spero di suonare sempre di più. E quindi faccio il mio concerto che dura un'ora, un'oretta e mezzo, dipende. Da solo, con la chitarra? Da solo. Mi aiuto con degli effetti sì. tipo loop station che raddoppiano la chitarra, quindi posso fare degli assoli, così, abbellimenti. Però, cioè, tu sei una storia da raccontare e sai suonare lo strumento, cioè, 10 persone. Una volta ogni tanto li trovi, no? Sì, questo okay? Certo. E questo è il concetto della musica, del raccontare qualcosa. Cioè, il cantastorie non è solo uno che ti parla di una storia, ma ti parla anche di un'emozione, no? Un qualcosa che veramente cioè, per me è eclatante questa cosa. Veramente una canzone o ti fa veramente imbestialire, perché è banale, perché o ti fa innamorare, o ti fa cagare, o ti emoziona, ok? Quindi questo, quei 5 minuti lì possono essere straordinari, possono essere la partenza di mille persone. Chissà quanto adesso, quanti Gregori, quanti De André in giro per l'Italia ci sono, e non ci sono perché non c'è lo spazio, e loro non hanno coraggio di, capito? Ho capito. E questo è il concetto, forse il concetto di questa canzone qui, ecco. Certo, tra l'altra cosa volevo dire che c'è anche il fratello di De Gregori in giro. Sì, Luigi Greg, no? Ha fatto un disco nuovo. Assolutamente, un disco nuovo. Massimo. Benissimo. Rispetto. Certo. Allora, stiamo parlando con Fabio Debbi, Il posto più sicuro, il titolo del suo ultimo lavoro, poi avremo modo anche di parlare delle sue precedenti esperienze sul CD, ma ci concediamo una piccola pausa di gusto ascoltando un altro pezzo da CD che si intitola Le risposte che hai non le chiederai mai. Blue Time. Blue Time. Blue Time. L'acqua che cade va raccolta, perché ogni goccia ha il suo peso nel mondo. La voce più bassa va sentita, perché ogni voce ha il suo mondo sulla schiena. Il tempo va, la mente va, l'amore va, irrefrenabile. La storia va, il giorno va, l'idea va, irraggiungibile. Fermarsi qui, qui dove gli occhi si liberano, spogliandosi da qualsiasi difesa. Che sei, sempre sarai, e le risposte che avrai non le chiederai mai. Un sospiro che vola va tenuto, perché ogni volo ha il suo peso nel giorno. Una foto perduta va trovata, perché ogni cerca ha un tesoro nascosto. Il cielo va, la luna va, la vita va, inevitabile. La terra va, un fiore va, l'aria va, irraggiungibile. Sei, sempre sarai, e le risposte che avrai non le chiederai mai. La storia va, il giorno va, l'idea irraggiungibile. Fermarsi qui, qui dove gli occhi si liberano, spogliandosi da qualsiasi difesa ormai futile e debole, perché quello che sei sempre sarai. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Ci siamo ascoltati un altro pezzo del disco di Fabio Debbi, Il posto più sicuro. Questa volta era di turno Le risposte che avrai non le chiederai mai. Un'atmosfera molto ritmata, come avrete sentito. E Fabio qui incomincia dall'acqua, da una goccia, per parlare del mondo e del peso che ognuno ha all'interno della società e del mondo. Un tema, tra le altre cose, dell'acqua, che si ripete anche in un'altra tua canzone, L'idea sì. che ho di te. Sì, beh, l'acqua l'acqua non la vinci. Ah no. Se cominci a parlare seriamente non la vinci. Per cui è un'immagine molto evocativa, molto forte e da usare, almeno per il mio vocabolario. Per cui, perché no? Usiamola, ma più che altro mi piaceva questa l'idea delle quando io dico aspetta che non lo ricordo neanche più, aspetta, quando io dico cioè, l'acqua che cade va raccolta perché ogni goccia ha il suo peso nel mondo, cioè forse è un concetto trito ripreso mille volte, in questo caso preso da un altro punto di vista, però effettivamente cioè ogni cosa che ti capita può avere un significato, come non lo può avere, dipende te da come posti la tua vita e tutto il resto. E il discorso di prima, puoi avere mille canzoni nel cassetto, ma se non le fai ascoltare, allora non serve a niente. Certo. E questo è il discorso. E basta una, però, per farla. Basta una. Giusta. Io ho imparato a suonare in chiesa. Ok, la chitarra, principalmente, perché nel coro della chiesa, cioè, nel coro della chiesa, no? Accompagnavi qualcuno che esatto, che poi dopo crescendo mi sono fatto lì la mia idea sulla chiesa e tutto il resto, poi è rimasta la chitarra, buona cosa. Quello che a me piaceva, che ho imparato e che conservo tuttora, è questo, cioè che insomma, nelle canoniche, insomma, nei gruppi cattolici, insomma, c'è sempre questa cosa qua della chitarra, no? Più o meno chitarra, bonghetti, esatto, questa cosa. Sì. Cioè, forse adesso, se io parlo adesso con un sedicenne, mi dice sei fuori. Cioè, sì. Io che ho, insomma, sono degli anni, sono 36 anni, per cui sono riuscito a percepire questa cosa, no? Passarla. E mi ricordo che bastava veramente in una serata 10-15 canzoni che suonavano, due venivano recepite principalmente, no? C'era il momento clou, no? In cui io ho sempre viaggiato sempre con un mio librone di testi, di cose. Due principalmente venivano, un paio, insomma, no? Del resto suonavi per i due sfigatelli che erano lì con te, che come me suonava, gli altri Morosetti. Morosetti, esatto. E così via. E quindi è lì che mi è partito il concetto di dire, cavolo, è sufficiente questo, però si parla di anni e anni fa, no? E io ho iniziato a suonare dal vivo le mie canzoni relativamente pochi anni fa rispetto alla mia esperienza live, che è quasi ventennale. E sono cose che maturano pian piano, ma quando maturano... E sono invincibili, no? Quando c'è qualcosa che tu capisci da solo, senza che nessuno te lo impone, non puoi essere. Puoi essere solamente come l'acqua, ok? Sì, ma tu hai detto di suonare la chitarra nei gruppi in cui si suonava, ma era l'aggregazione che contava. Quello assolutamente. È l'aggregazione, la canzone del sole la contavano tutti, perché la canzone del sole è facile, certo. Giorno e notte molto semplice, ma è l'aggregazione, cioè il coro assieme, quello che porta. Assolutamente. È quello fondamentale, parte tutto da là. Ce l'hai ancora in quel librone la canzone del sole, Fabio? No. No. Un mare nero. Ma la suono qua, ma... No, vabbè, grazie. Continuiamo a parlare della tua musica, senz'altro interessante. Allora, tu hai fatto in ordine di tempo tre album, quindi... Sì. Quindi il tuo primo album, Il vento soffia lento, sì. E il secondo album, Luoghi sempre luoghi. Sì. Allora, c'è un qualcosa che vuoi proporci da un tuo album precedente? Ok, facciamo una canzone, facciamo il vento soffia lento. Quello il vento che soffia lento, sì, dal titolo. Proprio dal questo. Titolo. Allora, Fabio Debbi, all'interno di Blue Time Live, con questo suo pezzo che risale a qualche tempo fa, il suo primo lavoro, si intitola Il vento soffia lento. Eccolo qua per voi. Per i miei occhi colori d'ali e per la mia schiena chiodi di velluto. Per i miei piedi carezze di fiume e per i miei pensieri distese infinite. Quel tanto che basta per vivere. Ci sono giorni in cui si tocca il fondo e giorni in cui ogni giorno è nuovo e poi giorni in cui le domande non hanno risposte. E giorni come oggi, dove il vento soffia lento. Per le mie braccia, piume di falco, e per il mio viso, cascate di sole. Per il mio cuore, pace e pazzia, e per le mie labbra, vino e poesia. Quel tanto che basta per vivere. Ci sono giorni in cui si tocca il fondo e giorni in cui ogni giorno è nuovo e poi giorni in cui le domande non hanno risposte. E giorni come oggi, dove il vento soffia lento. Ci sono giorni in cui si tocca il fondo, giorni in cui ogni giorno è nuovo, e poi giorni in cui le domande non hanno risposte. E giorni come oggi, dove il vento soffia lento. E giorni come oggi, dove il vento soffia lento. E giorni come oggi, dove il vento soffia lento. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Il vento soffia lento, abbiamo ascoltato un pezzo dal vivo qui all'interno di Blu Time Live con Fabio Debbi protagonista. Questo è stato il suo primo lavoro, allora una delicata ballata intima dove Fabio dice ci sono giorni dove si tocca il fondo, altri dove si può volare in alto. Sembra rimandare comunque a un qualcosa scritto da Bob Dylan, tipo Blow in the Wind. Il primo è stato lui. Dici? Ma io, Flavio, io mi inserirei verso Donovan, secondo me, più che Dylan. Sempre un po' di folk. Sì. Chiaramente Blow in the Wind, però a proposito di vento, non soltanto Blow in the Wind o il vento di Battisti, ma c'era anche il vento dell'est di Gian Pieretti, grandissimo pezzo, okay, di un cantautore, okay, di un certo, okay, tipo. Assolutamente. Quindi si potrebbe fare una trasmissione dedicata solo al vento. Certamente, decisamente. Ok, vengo. Quindi con special guest Fabio Debbi. Benissimo. Vento e acqua le mettiamo dentro. E vento e acqua fa sempre, sì, sono stati, sì, protagonisti di tantissimi pezzi. Poi il vento dà una certa spinta. una certa spinta anche sovversiva, perché Blowin' Wind non era solo un pezzo, un pezzo folk, era un pezzo di un certo peso. Assolutamente, diventa un peso sovversivo, non è male. Senso, di senso, sì, sì, assolutamente. Di far svegliare le coscienze, sì, sì. Questo voglio dire. Sì, sì, assolutamente sì. Cioè, Blowin' the Wind, cioè, tutto nasce, per quanto mi riguarda, e nella biografia l'ho messo, da un primo CD, il primo CD che ho comprato, io non so come mai, e ho preso il primo CD di Don Bobina, dove lui si vede questa faccia paffutella, esatto, no, no? Quella. Questa sua J45, e pezzo, lì dentro non c'era Blowin' the Wind, no, perché però era influenzato Woody Guthrie, il primo disco, ah, sì, assolutamente. Assolutamente, assolutamente, il primo disco dove ci sono anche delle sue versioni, sì, delle sue coppiature, sì, per coppiature, qualcuno dice coppiature notevoli, da quando andava a trovarlo in ospedale, tutte queste dicerie, queste malignità, eccetera. Sì, no, poi ci sono anche delle canzoni, dei passaggi di tradizionali irlandesi che, non, insomma, che lui vabbè. Fece di necessità virtù anche lui. Blowin' the Wind, chi è che non la conosce? Assolutamente. E io volevo fare in questo modo la mia Blowin' the Wind, no? Chiaro. E in realtà questa canzone qui ha un sacco di anni, E io la scrissi quando avevo 14 anni, no? E quindi ne ha macinata. Il testo era diverso, e la registrai con un quattro piste, no? Voi sapete chi è, cos'è un quattro piste. Incisi la chitarra, ci cantai la voce e poi c'era questa svisata di armonica, no? E cosa che poi sull'originale, insomma, l'attuale, insomma, quella che è nel CD, non è cambiata molto. La feci ascoltare a un personaggio famoso, chitarrista famoso, del Reggiano, e lui praticamente mi disse: scusami, ma veramente è una cosa orrenda. Cioè, proprio così ti ha detto. Sì, sì, sì. Anni dopo, dopo io, quando uscì il vento, uscì, insomma, quando io portavo in giro il vento soffia lento, incontrai questo chitarrista, che non dico il nome. Ma no, te lo stavo chiedendo, ma visto che non hai parlato bene, se lui mi ascolta in questo momento, sai che sto parlando di lui. Lo salutiamo, ciao, chitarrista, sì, sì, anonimo. Sentì il pezzo, e a distanza di anni, quindi parliamo di 20 anni, no? A distanza, e ho detto: cavolo, caspita, questo pezzo qua è atomico. Benissimo. Perfetto. Allora ne approfitto per salutare anche il nostro direttore artistico Alberto Prisco. Tramite lui, tu, Fabio, sei qui con noi questa sera. Lo ringraziamo perché ha sempre. Grazie, bene, grazie. Ecco, e poi ricordiamo ancora una volta il nostro sito internet bluradioveneto.it e la nostra pagina su Facebook Blu Radio Veneto Rock Wave, per fare un saluto a Fabio Debbi e per ascoltare la nostra trasmissione anche via internet. Allora, ancora mano al CD, perché ci ascoltiamo un altro pezzo da questo album che si intitola Il posto più sicuro, e questa volta andiamo ad ascoltarci Fermo ed attento, quindi tutti fermi ed attenti a questa canzone. Blu Time. Blu Time. Blu Time. Si schiene di cavalli veloci, problemi di tempo non ne avrei mai. Se avessi l'energia dei lampi d'estate, problemi di luce non l'avrei mai. Ma sono fermo, attento a qualsiasi idea, per ogni silenzio o rumore che sia. Ma sono fermo, attento a qualsiasi via che mi porti gioia o che mi porti nostalgia. Se avessi api per creare miele, paura paura di pungermi, non l'avrei mai. Se avessi barche per guardare il fiume, paura d'affondare, non l'avrei mai. Ma sono fermo e attento a qualsiasi idea, per ogni silenzio o rumore che sia. Ma sono fermo e attento a qualsiasi via che mi porti gioia o che mi porti nostalgia. Passati ritaglierei, se avessi le botti dal legno antico, certi giorni passati invece li brinderei. Ma sono fermo e attento a qualsiasi idea, per ogni silenzio o rumore che sia. Sono fermo e attento a qualsiasi via che mi porti gioia o che mi porti nostalgia. Ancora buona serata a tutti, questa è Blue Time Live, appuntamento serale con Blue Radio Veneto. Io sono Flavio Bilato, assieme a me Maurizio Calzavara e assieme a noi Fabio Debbi, che ci sta presentando il suo ultimo lavoro, si intitola Il Posto Più Sicuro, e abbiamo appena finito di ascoltarci Fermo e Attento, che è una ballata, un pop jazz, un delicato piano che si intermezza a questa tua voce, regala proprio un tocco molto jazz. Sì. Ad aumentare questo c'è anche una chitarra semi ovattata che induce proprio a dire questo è pop jazz. Beh, la chitarra che suona è la mia vecchissima 335 Gibson, che suona, ha la sua voce lì, proprio la canzone giusta, insomma, sì. Ha delle sfumature jazz e quindi è venuta fuori bene. Tra le altre cose, tu non sei nuovo dall'ambiente jazz. Beh, negli ultimi anni, nell'ultimo un paio d'anni, ho conosciuto il gypsy, musica gypsy, no? Swing del parigino degli anni 30, no? Dove il massimo esponente è Django Reinhardt, questo chitarrista che suonava con due dita, no? Certo. E diciamo che comunque è impropriamente chiamato jazz dei poveri, no? delle però è tosto, cioè non è proprio il jazz. Diciamo che un bluesman, no, come posso essere io, lo può suonare, può dire la sua, insomma. Però studiarlo in fondo ce n'è, insomma, studiarlo bene ce n'è, insomma. E della serie, quando non sai che musica è jazz. Assolutamente. Quando stai stonando è jazz, assolutamente. Però sei passato da Neil Young, i Crazy Horse, al jazz. appunto queste parentesi da Neil Young, anche gli Oasis, anche sì, i sì, Santana, sì, anche Jimi Hendrix Experience. Sì, sì, sì. Quindi hai passato un po' di tutto musicalmente parlando. Ti sei divertito, possiamo dire. Assolutamente. No, ho avuto un sacco di incontri, no? Musicali, no? Che poi quelli che hanno avuto esito positivo sono sfociati in band e quindi in concerti. Però non conto quelle che le varie prove fatte con personaggi e quindi cose che non sono riusciti a arrivare a termine, insomma. Però sei cresciuto, secondo me, con tutto questo bagaglio. Assolutamente. Insomma, è chiaro, insomma, se vuoi scrivere devi leggere, se vuoi suonare devi ascoltare. Esatto, devi ascoltare tanto e devi ascoltare, continuamente, sì, provare, poi, costruire. I Beatles, quando dicevano i biografi della band, loro continuavano a provare sempre in continuazione, sì, sì, sì, provavano, sperimentavano, certo, sempre. Certo. Non c'era giorno che si fermasse. Certo, certo, questo è fondamentale. Suonare vari generi, a parte che comunque ti metti alla prova e poi dopo studi, perché poi la musica è fatta di passaggi, passaggi che chiavi di lettura che puoi dare alle quali puoi dare un colore diverso, no? Perché una canzone la minore do fa, ce ne sono miliardi, certo, ok, e questa è la magia. È vero. Poi parliamo di Neil Young, sì, che è sol do re un mi minore, capito, parte della sua discografia è fatta così, però sì, tra altre cose nel 2008 tu, Fabio, eri assieme ai The Youngs. A proporre cover di Neil Young cantate con mio carissimo amico Giampaolo Corradini, mm-hmm, che è un giornalista di Reggio Emilia, sono scrittore, che ha scritto, e mi aggancio a una cosa che abbiamo in scaletta, no? Sì. Ha scritto un romanzo, si intitola Studio Cells, sì, sul quale io ho scritto una canzone intitolandola allo stesso modo, e Studio Cells, e lui era il cantante dei The Youngs, no? Ah. Perché lui è un Youngiano. Al 100%. Al 100%, assolutamente. Con il quale adesso sto collaborando, stiamo scrivendo i pezzi originali con un nuovo progetto, vediamo. Bene. È una bella cosa. Tornando al pezzo, Studio Sales è una sala prove di Reggio Emilia, comunale, nata secondo me negli anni 80, dentro la quale sono passati un sacco di musicisti. Sinara, che si è passato Zucco, Ligabue, tanti musicisti. Poi famosi a Reggio, poi dopo naufragati, insomma, nelle famiglie, insomma, nella rinuncia del sogno della musica. E la canzone è proprio veramente, il romanzo è una storia all'interno, che ha come sfondo questa sala prove. La canzone è praticamente un omaggio, no, a chi va in sala prove. Bene, allora facciamo così, Fabio. Sì, l'ascoltiamo subito, invertiamo leggermente la scaletta, quindi diamo spazio a questa Studio Cells, Fabio Debbi, qualche tempo fa, all'interno di un altro suo lavoro che si intitolava Luoghi, sempre luoghi. Ecco qua, Studio Cells per voi a Blu Radio Veneto. Sulle pareti dipingerò suoni inconsueti che odierò a soli volume, martellerò, io sto bene qui. Tra le pareti immaginerò persone o platee che applaudono, suono invadendo ogni ostacolo, io sto bene qui. Quattro pareti conservano storie di ieri che si impregnano negli spigoli vivi di ognuno di noi, e io sto bene qui. Anche se andrà come vorrà lei, sempre in piedi sarò. nel mio sognare, perché la vita è così, più di tanto non ti dà mai. Amore, fumo e rock and roll, adesso e fin quando sarà. Quattro pareti e il tempo che va, è una custodia che si aprirà da qui a 30 anni, sempre con me, io sto bene lì. Anche se andrà come vorrà lei, sempre in piedi sarò nel mio sognare, perché la vita è così, più di tanto non ti dà mai. Amore, fumo e rock and roll, adesso e fin quando sarà. Nel mio sognare, perché la vita è così, più di tanto non ti dà mai. Amore, fumo e rock and roll, adesso e fin quando sarà. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Abbiamo fatto un passo indietro nel tempo ascoltando... Scusate, siamo in diretta. Mi stava raccontando il motivo, sì. Come è nato il pezzo. Adesso lo puoi dire in diretta. Adesso lo possiamo dire in diretta, certo. Allora abbiamo ascoltato questo pezzo che si intitola... Studio Sales, tratto da uno dei primi lavori, anzi il secondo lavoro, Luoghi, sempre Luoghi, di Fabio Debbi, ed è un pezzo, una canzone dedicata a chi come noi non smetterà mai di sognare e di suonare, e quindi una canzone folk, e chi avrà modo di ascoltarla anche su disco, poi ricorderemo anche come entrarne in possesso del disco di Fabio Debbi. Ma lo si può ascoltare anche nel sito. Ah, benissimo, e noterà una canzone folk con un violino fortemente in contrapposizione ad una chitarra, quindi una chitarra dura e sferzante con un violino malinconico. È così? Beh, diciamo che comunque l'album è questo, in questo senso qui. Il pezzo in particolare qua è in contrapposizione di una chitarra distorta, di sottofondo c'è un piano che suona notine molto acute. E comunque Studio Sales fa parte di quei luoghi, sempre luoghi, no? Che io ho conosciuto... E grazie a incontri e grazie anche a scrittori con il quale ho collaborato, ho condiviso delle serate, e tra l'altro nei luoghi, sempre luoghi, c'è questa canzone su Gino Donneparo, che è un personaggio di un certo tipo, c'è una canzone scritta per Luciano Lutring, e c'è questa Studio Sales che io suonai per la prima volta a mio amico Giampaolo Corradini, che mi disse: ma scrivi un sacco di canzoni sbagliate per il mio libro Mai. Io allora andai a casa quella sera lì e alle 3 di notte gli mandai un messaggio: ho scritto la canzone, così non mi rompi più i maroni. ho scritto questa canzone. È difficile scrivere canzoni su un libro, è già difficile interpretare un film che... la canzone è furba rispetto a un libro, perché hai la possibilità della sintesi, no? E puoi dire tante cose come puoi fartele scappare tante, no? Però è più facilina rispetto a un romanzo, perché però può essere anche, può per questo diventare anche molto banale, no? Con i passaggi. Qua forse è venuto fuori perché c'è una forte amicizia tra me e lo scrittore. Lo scrittore. Morale della storia, sempre per quel discorso che dicevamo prima, ognuno può avere i suoi 5 minuti davanti a 3 persone, 10 o 20.000, per cantare la propria canzone. Gliela cantai lì quella serata, una serata successiva, e vidi delle lacrime sui suoi occhi, ok? E poi c'è una frase fondamentale: amore, fumo e rock and roll, proprio da Loner, da cantautore, da Loner, assolutamente da Loner. Sì, sì. Qui c'è proprio l'immagine proprio del Loner americano, non soltanto americano, del Loner in generale. Del cantautore errante che va in giro a suonare. Assolutamente sì. È così, secondo me quel verso là da proprio contraddistingue proprio il modo di proporsi. Assolutamente sì. Cioè, al di là del fumo del rock and roll, ma soprattutto del rock and roll. Quindi beh, il rock and roll inteso come rock and roll in senso più ampio del termine. Sì, assolutamente. Rock and roll è qualcosa che ci sono dei io amo pensare, no, che i personaggi che hanno frequentato, le persone che hanno frequentato questo luogo abbiano ancora, no, il proprio strumento impolverato dentro una custodia, no? E sono convinto, e ci gioco quello che vuoi, che ogni tanto lo vanno a vedere, ogni tanto lo vanno a osservare, perché uno strumento, una chitarra, un basso o qualsiasi tipo di strumento è un oggetto fetisticamente, no, insomma, una cosa, un feticcio. È un feticcio, ma un feticcio vero, non è un feticcio morto, è un feticcio feticcio vivo, è sempre un anacronismo, ma è così, ma è vivo, è umano, possiamo dire questo. Ed è bellissimo da rivedere, chi lo sa, forse con questa canzone mi sono predetto il mio futuro, casomai anch'io fa 30 anni andò a vedere le mie chitarre e mi scapparò una lacrimuccia. A proposito, allora abbiamo ancora un po' di tempo per ascoltare delle canzoni. Fabio Debbi, ci devi dire, abbiamo citato molti personaggi che ti hanno costruito la tua carriera musicale, quindi abbiamo citato Bob Dylan, abbiamo citato Neil Young e altri personaggi di riferimento che ora non ricordo se li abbiamo citati in diretta o mentre andava la canzone. Abbiamo parlato un attimo di Cucini. Sì, sì. Volevo capire quali sono gli artisti che ascolti volentieri in questo periodo, dovendo scegliere i tre ultimi dischi che ti sei comprato, diciamo. Ah beh, Gigi D'Alessio, la Pausini e... Ma l'hai comprato soprattutto per Gigi D'Alessio, ecco. Per levarli dalla cioccolata. Come hai capito, no, sto scherzando. C'è anche a chi piace questo genere di musica, al nostro pieno rispetto. Però la domanda è: quali sono i dischi che ti sei preso per ascoltare? Guarda, l'ultimo disco che ho preso, la settimana scorsa, è un disco di Nino Ferré. Oh. No? E che ho riscoperto grazie a una radio locale nostra, che è Rock di Scandiano, al DJ Marco Moser, e ho scoperto questo mostro di bravura, una voce incredibile, una capacità di essere simpaticissimo, no? E mai banale. E quindi no, lo sto ascoltando. Poi tra l'altro ha scimmiotta tra virgolette molto bene James Brown, no? nei versi, nei contro, anche Wilson Pickett, ma e quindi questo è l'ultimo CD, insomma. Però se parliamo di generi, parliamo assolutamente di De Gregori, parliamo di Cuccini, parliamo di che non so, alcune cose di Fossati, assolutamente. Penso di essere lì di casa. Poi dopo, insomma, dal punto di vista forse cantautorale, sai, ci giochi poi poco in Italia, no? Anche se ci sono un sacco di personaggi incredibili, no? Adesso non mi ricordo neanche i nomi, però ci sono delle canzoni incredibili di cantautori che per come sono nate le cose sono rimaste nell'ombra, però per fortuna adesso c'è YouTube che le vai a scovare e le senti, cioè, assolutamente. C'è questa canzone di, adesso mi imbroglio, non mi ricordo, dove dice Torino non è New York, adesso non lo, mi ricordo, però insomma questa, ci sono canzoni incredibili, insomma basta incuriosirsi, c'è la canzone, ci sono persone che hanno, cantautori che hanno scritto parole allucinanti, insomma avanti anni luce, forse troppo avanti. Per quello forse. Una canzone di Enzo Maulucci. Maulucci, bravo. Ecco qua, quindi l'abbiamo, abbiamo trovato anche il, la fonte. Assolutamente, ci sono delle, delle frasi in quella canzone lì che sono spiazzanti, taglienti proprio, cioè alla faccia delle, del perbenismo o delle, del, del cotone, del velluto del, dell'Italia degli anni 60, perché gli anni 70 e sì. 60, poi dopo lì siamo a cavallo, poi vabbè, insomma. Infatti adesso che forse c'è bisogno in questi anni qua in cui veramente siamo a terra, insomma, di persone che vanno in giro, dicono le proprie cose, perché c'è, ci si può far sentire. C'è bisogno di rivoluzione in questo caso. Assolutamente. Bene, allora, visto che parliamo di rivoluzione, perché non inserire anche quella canzone che tu hai citato brevemente prima, troppo brevemente, ma adesso ce l'ascoltiamo e poi torniamo a commentarla insieme. Allora, Fabio Debbi all'interno di Blue Time Live con questo Gino Donè Paro. Beh, Gino, posso dire due cose? Certo. Gino Donè Paro è la storia è incredibile. Io l'ho conosciuto attraverso uno scrittore di Parma, Davide Barilli. Ecco, la storia sua è un ex partigiano che dopo la guerra è andato, beh, è di queste parti, forse voi lo conoscete. Sì, è veneziano. È andato, si è trovato a Cuba lavorava come carpentiere, ha conosciuto una cubana dentro all'organizzazione di Fidel Castro, e Raul, eccetera, eccetera, si è innamorato. Ed è entrato a far parte di questa cosa. Quindi lui è un italiano, passaporto straniero, veniva utilizzato da Fidel Castro per andare fuori Cuba. Lui portava i cubani in la città del Messico, dove li addestrava per poi portarli dentro quando poi è successo questo che è successo. Ma la cosa che mi è piaciuta più che altro della storia di Gino Donè Paro, l'ho imparata attraverso una sua intervista, non è tanto la storia di Cuba, no? Che personalmente mi interessa poco. E la sua concezione della politica, no? Cioè lui diceva che tra di noi solo un patto di assoluta fraternità, nessun giuramento, solo un fatto di lealtà. Ecco, questa cosa qui è talmente anacronistica rispetto ai giorni d'oggi che già ho fatto su una canzone, ok? Ecco questo Gino Donè Paro. Ecco qua, ci ascoltiamo Gino Donè Paro, Fabio Debbi a Blu Radio Veneto. Sotto l'ombra di questa palma, perenni labbra mi innamorano, come il vento dell'Atlantico, le sue mani mi sfiorano, nelle notti di romantico rum, nuove speranze si coltivano, nei suoi occhi uno spazio libero, che invase me mai più povero. Lavano una piazza di polvere, un recipiente di giovani idee. Lavano il mio cuore che batte già, dove il mio amore mi sposerà. Un passaporto come zattera, batte bandiera invisibile. I clandestini non fiatano, città del Messico l'impressionerà. Tra di noi solo un patto di assoluta fraternità e nessun giuramento, solo un fatto di lealtà. Tra di noi solo un patto di assoluta fraternità e nessun giuramento, solo un fatto di lealtà. L'odore del mare ci vestirà di merda e fame e lividi. Il gramma è una nuvola in questa notte tiepida. Tra di noi solo un patto di assoluta fraternità e nessun giuramento, solo un fatto di lealtà. Tra di noi solo un patto di assoluta fraternità e nessun giuramento, solo un fatto di lealtà. '82 Barbudos, bestemmie e canti si alternano, e quando a Cuba si arriverà il primo pensiero sarà per te. Tra di noi solo un patto di assoluta fraternità e nessun giuramento, solo un fatto di lealtà. Tra di noi solo un patto di assoluta fraternità e nessun giuramento, solo un fatto di lealtà. Per sempre, per sempre, per sempre, hasta siempre. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. All'interno di Blue Time Live c'è Fabio Debbi, con lui abbiamo ascoltato questa sua versione in acustico di Gino Donè Paro, una toccante ballata sudamericana, per chi avrà modo anche di ascoltare questo pezzo. Parla appunto, come diceva Fabio, di un ex partigiano veneziano che con il Granma, che era uno yacht in quel periodo, nel 56 assieme ad altri 82 guerriglieri, lui era l'unico diciamo italiano, era andato assieme a Fidel e a Che Guevara a Cuba nel 56 per quella che poi è stata la rivoluzione, per sconfiggere Batista in quel periodo là. E vale proprio la pena ascoltarla anche nella maniera tradizionale, quella che proponi al pubblico, perché è tutta Lì è proprio suonata con delle percussioni, con il violino, e c'è questo, abbiamo voluto creare insieme ai musicisti insomma che ha suonato con me, sì, questa cosa italiana cubana, no? Dove c'è il violino che entra e dà una sensazione di nebbiosa, no? Tipica di queste zone e delle mie, insomma, e per poi arrivare anche all'intro, al ritornello dove partono le percussioni, no? E quindi andiamo, c'è questa cosa qua, insomma. L'idea era questa. Le percussioni e impressioni sono fondamentali, musica cubana, assolutamente. Il movimento è quello che conta. Sì. Quasi come un compay secondo. Un compay secondo, esatto, hai ragione. Non c'è Ray Kuder, ma c'è Fabio Debbi, la stessa cosa. Ah, siamo la stessa cosa. Non c'è problema. Va bene, allora Fabio Ray Kuder Debbi in questo caso. Ecco, appunto, facciamo così. Possiamo chiamarti. Vado a casa, carico come una molla. Quindi rimbalzi più che viaggiare. Ecco, benissimo. Allora, vogliamo parlare anche un po' delle altre tue precedenti esperienze, perché tu ti muovi giovanissimo a suonare, quindi già nel 96, all'età di 20 anni, sei già con un gruppo bello tosto a proporre la tua musica in giro. Sì, e diciamo che lì è stato un tuffo, no? Una voglia di potermi esprimere. È chiaro che lì siamo lontani da quello che poi saranno i tempi d'oggi, in cui propongo esclusivamente le mie canzoni, no? E lì erano delle cover, erano un sacco di canzoni straniere, però insomma, muovevo i primi passi, mi accorgevo, perché poi tra l'altro suonare è anche soprattutto comunicazione, no? Certo. E ti accorgi che comunque quello che tu suoni comunichi. No? Ho visto un sacco di chitarristi o di gente che suona poco dotata tecnicamente, ma con una comunicatività assolutamente sopra le righe, no? E questo è il genere di musicista che mi ha sempre colpito, no? E credo di essere tale, ecco, non Grazie per Ray Kuder, però insomma. Ray Kuder è un tecnico, però è molto tecnico. Ray troppo. Troppo. Però tecnico, però, che ha la passione di fare le colonne sonore dei film. Beh, certo. La tanto, passione, tanto la passione è un grande genio, indubbiamente. Beh, infatti, quel discorso lì con Compagno Segundo è stato ottimo, secondo me, perché ha sporcato la sua tecnica, capito? E perché nei CD poi è dal vivo, si sentono, ci sono un sacco di chitarre scordate, un sacco di però è il bello, proprio il bello del live o di un certo tipo di musica. Ma dobbiamo sottolineare che Ray Kuder è stato grazie a Ray Kuder che la musica cubana è uscita nel mondo. Assolutamente grazie a lui. E c'è anche un film documentario assolutamente bello, esatto. Piacevole bellissimo, da vedere, che bellissimo. Parla appunto di questa di questa uscita dei cantanti grazie proprio a Ray Kuder che è andato, come dire, a parlare col esatto. governo e a dire c'è bisogno di musica esatto. nel mondo. Fate. Portiamoli fuori. Fate. Benissimo. Allora, ancora Fabio Debbi, Il posto più sicuro è il titolo del suo ultimo disco, però adesso ci ascoltiamo ancora un qualcosa che riguarda il tuo secondo lavoro, Fabio. Sì. Sempre luoghi, questa volta ci sono i bicchieri di chiffon. Ok, bicchieri di chiffon. Bicchieri di chiffon è nata praticamente come ci serve da parlare delle ore, però è nata come Andrea Villani, uno scrittore di Parma, ha scritto una biografia romanzata di un personaggio scomodo o romantico degli anni 70, Luciano Luthering, che praticamente la storia, vabbè, non stiamo qui a raccontarla, comunque è una sorta di Lupin all'italiana. La cosa che lui era solito dire e pensare che c'era sempre qualcosa da fare e qualcosa si farà, che c'era sempre una via d'uscita e una via d'uscita si troverà senz'altro. Cosa che è molto è un bel messaggio di speranza, volendo, no? Nella delinquenza lui riusciva a dare questi messaggi pieni di speranza. Questa cosa qua, questo contrasto mi ha colpito, e la canzone è questa qua, Bicchieri di chiffon. E ha sfumature gypsy, no? E qua si sentono questi ritmi qua, insomma, swing, via. Facile e veloci tra bicchieri di chiffon, il vento della notte è un alito di fon, la dolcezza di una mano che profuma di bon ton, è la chiave che apre il mondo come un passepartout. La pelle di una donna è un rifugio comodo, come le gomme sull'asfalto che si allontanano. Il violino ha quel suono e quel suono è unico, e quegli occhi hanno luce e quella luce è libera. Vabbè. C'è sempre qualcosa da fare, qualcosa si farà. C'è sempre una via d'uscita che si troverà. C'è sempre qualcosa da fare, qualcosa si farà. C'è sempre una via d'uscita che si troverà. Ah. Facile e veloci tra bicchieri di chiffon, sorrisi e baci e soldi e colpi di clacson. Il freno non esiste e mai più esisterà nell'onesto gioco sporco di romantico viveur. Vicoli, paluzzi, le ombre si allungano, gli spazi sono angoli che si inquinano, ma nel buio della notte c'è e ci sarà un gatto che miagola un chanson pour son amour. C'è sempre qualcosa da fare, qualcosa si farà. C'è sempre una via d'uscita che si troverà. C'è sempre qualcosa da fare, qualcosa si farà. C'è sempre una via d'uscita che si troverà. Ah, ah, ah. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Live. Abbiamo ascoltato con la voce di Fabio Debbi, accompagnato dalla sua chitarra, questa canzone intitolata Bicchier di Chiffon. È dedicata a un personaggio davvero particolare, un rapinatore, si chiama Luciano Lutring, realmente esistito, quello che Fabio ha appena definito l'Arsenio Lupin all'italiana, ed è anche spiegato su internet, per chi avrà la curiosità di approfondire la figura di Luciano Lutring, di come abbia combinato la prima rapina. Lui era arrivato in posta, aveva un turno incredibile, la commessa della posta molto lenta, e allora lui aveva una pistola a giocattolo, l'ha fatta intravedere, al che tutti si sono spaventati, gli hanno dato tutti i soldi e lui è andato via. Ma la cosa eclatante di questo personaggio, sì, è che comunque lui dopo ritornava in banca e chiedeva scusa ai rapinati, regalando rose alle donne, quindi doppiamente beffati in questo caso. Quindi Lupin, in ogni caso, ed era soprannominato anche il solista del Mitra. È vero, e quindi lui girava sempre grandi alberghi, macchine fuori serie, aveva una vita estremamente lussuriosa, se vogliamo dire, e quindi proprio Arsenio Lupin in carne ed ossa. E tante cose nella sua vita da carcerato, perché poi naturalmente basta Grand Hotel e fuori serie, ma grandi sbarre e secondini, è riuscito anche comunque ad avere un rapporto epistolare con Sandro Pertini, che allora era il Presidente della Repubblica. Beh, ci sono un sacco di cose da dire su questo personaggio, e sono anche andate benissimo da mio amico Andrea Villani, scrittore di Palma, e dove lui veramente racconta le vicissitudini di questo personaggio, che ha tra le altre cose ha perdonato, anche perché lui ha preso anche è stato colpito in una retata da colpi di fucile, ha perdonato insomma chi l'ha ferito, poi ha perdonato lo Stato anche per la sua perdita di un figlio, insomma è un personaggio veramente interessantissimo, e sarebbe da farci una puntata, insomma, forse chiamare Luciano Lutring non sarebbe male, no? Vabbè, facciamo anche questo, ci sarà spazio anche per questo in futuro, sempre come special guest Fabio Debbi. Esatto, sempre lui. Vabbè, allora due maroni sto Fabio Debbi. Allora, ascolta Fabio, abbiamo da segnalare anche due video che tu hai fatto, che sono presenti su YouTube. Su YouTube oppure sul mio sito www.fabiodebbi.com, e ci sono un sacco di video, sto sposando questo mezzo di comunicazione, sto collaborando con della gente bravissima e dei miei amici fotografi, e penso che insomma adesso ce ne sono due fatti in modo serio, ce ne saranno degli altri, insomma, perché è bello, è una bella esperienza. Benissimo, adesso prima di lasciarci Fabio, perché il tempo come sempre è tiranno e quest'ora e mezza è volata via, ecco, ci parli un attimino di quello che è l'ultimo pezzo, da quel Il vento soffia lento, che è stato il tuo primo album. Adesso ci farai ascoltare, ti lasciamo i microfoni aperti, Leggimi l'anima. Vogliamo un attimino scoprire come si fa a leggere l'anima? Leggimi l'anima è una... guarda, cioè, io non voglio ripetermi, però il discorso di un cantautore, uno come me, come tanti, leggimi l'anima significa ascoltami, che qualcosa da dire ce l'ho. Poi criticami se non ti è piaciuto, ma quei 5 minuti dammeli. Ecco, tutto lì. Può essere chiusa così. Quindi la filosofia tua è questa. Benissimo. Sì, ma dovrebbe essere la filosofia di tanti, del mondo in generale, no? Perché 5 minuti ce l'hanno tutti. Certo. Poi, come 5 minuti ce l'hanno per dire delle cose, in 5 minuti si fa un figlio anche volendo, quindi ok. Quindi bastano meno. Sì, vabbè. A me allora basta di più, perché sai, io... Vabbè. Leggimi l'anima è il pezzo che andremo ad ascoltare. Parliamo brevemente ancora del posto più sicuro. Questo CD, come scrivi tu poi alla fine del tuo disco, quella dedica a tutti gli ascoltatori, è dedicato a chi non smette mai di cercare, a chi non si sente mai comodo dentro il vestito che vive, ma nonostante questo questo vive alla grande. E quindi anche un augurio ai nostri ascoltatori, quello di vivere alla grande. Ricordiamo ancora una volta come si fa ad entrare in possesso del tuo CD, Fabio? Ah, se viene ai miei concerti. Ah, benissimo. Sì, sì, sì, alla vecchia maniera proprio, no? Non è, anzi, pretesto per... ed è bellissimo vedere in faccia chi compra il CD, È una bella soddisfazione. A parte io lo vendo a pochissimi euro, insomma, e preferisco fare così, insomma. E, perché vendolo per corrispondenza, a parte che non credo che di riuscire a vendere per corrispondenza, perché insomma, chi che lo caga, Fabio Depi, a un certo punto, no? Beh, no. Non è detto. Noi l'abbiamo ascoltato, sì. Volentieri, ti abbiamo invitato qua perché ci ha fatto una certa impressione positiva la tua musica, no, e quindi ci tenevamo a farlo ascoltare. Infatti anche gli ascoltatori. Infatti io sono ringraziato un casino per questa cosa. No, no, vendo i concerti perché credo che sia una merce di scambio. Io regalo... la mia canzone, che le mie canzoni che se possono emozionare forse è un ricordo della serata. Io amo pensare il CD come un souvenir di una serata, no? Perché come a me è capitato di vedere dei concerti di personaggi sconosciuti, emozionarmi e ricordarmeli tutto, io spero di essere anch'io da quella parte lì, insomma, ogni tanto. Benissimo, noi ci siamo emozionati con le tue canzoni, Fabio, e grazie. Quindi ti diamo, diciamo, grande carica affinché tu possa ritornare prossimamente con il tuo quarto lavoro. Speriamo. Benissimo, allora noi abbiamo terminato, freghiamo ancora qualche minutino al programma dopo, che è la classifica di Rock Wave condotta da Alberto Prisco, e quindi ci ascoltiamo Leggimi l'anima. Allora Fabio, noi ti lasciamo i microfoni aperti, noi andiamo via pian pianino senza fare rumore e salutiamo i nostri ascoltatori, e quindi ancora grazie di essere stato con noi, Fabio Depi. Grazie a voi. Buon rientro nella tua ben amata Reggio Emilia, e quindi da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara il solito grande calloso ciao, buonanotte a tutti, vi lasciamo con Fabio Depi, Il posto più sicuro. Grazie Fabio. Dentro alle vene c'è un violento incedere, ma senza sete non lo puoi di certo riconoscere. Dentro ai tuoi occhi c'è una tempesta di polvere, dune e vento cambiano in ogni istante le linee. Acqua di fiume che scivola via, filtrando tra la pelle e la mia fantasia, vivendo ogni istante come pura poesia. Sparami o bruciami, ma leggimi l'anima. Non è così difficile, non è impossibile, basta solo stringersi e non guardare mai giù, mai più. Dentro alla bocca c'è un continuo rinchiudere ed un oceano di parole che aspettano solo te. Dentro alle mani c'è un sensibile leggere, un precipizio di sudore e dita che si intrecciano. E acqua di stagno che non va più via, da rospe zanzare c'è sempre un'idea. E anche in quei giorni di bianca foschia, conquistami o lasciami, ma leggimi l'anima. Non è così difficile, non possibile, basta solo stringersi e non guardare mai giù, mai più. l'acqua di fiume che scivola via, filtrando tra la pelle la mia fantasia. E anche in quei giorni di bianca foschia, calciami o baciami, ma leggimi l'anima. Non è così difficile, non è impossibile, non è così difficile, non è impossibile, basta solo stringersi e non guardare mai giù, mai più. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Blue Time.